Bordo Campo di Dario Ricci. Abbiamo ospiti oggi a Bordo Campo due presidentesse del calcio nostrano, Valentina Maio, 26 anni alla guida del Lanciano, Deborah Caldora, 40 anni al vertice del Pescara Calcio. È già strano insomma, trovare due donne al vertice di due società calcistiche. In più le troviamo subito dopo quello che è stato il derby d'Abruzzo, Lanciano-Pescara, 2-0 per Lanciano. E allora, Presidente Maio, Presidente del Lanciano, tante affettuosità, tanti abbracci e baci nel vostro incontro, ma alla fine i tre punti se li ha portati a casa lei. Meno male, no, sto scherzando. Ma io sono contentissima, cioè abbiamo cercato di organizzare al meglio una giornata sportiva, bella, sicuramente ha vinto lo sport in quell'occasione e poi sicuramente sì, come ha già detto lei, abbiamo vinto noi, siamo contenti, abbiamo portato tre punti importantissimi, fondamentali per la nostra classifica, sì. Sono fiera dei miei ragazzi e anche un ringraziamento particolare per il nostro mister. Già sento dal tono che parliamo con due esperte. Presidente Caldora, presidente del Pescara, lei tra l'altro figlia d'arte, no? Ha raccolto il testimone da suo papà Armando, che già era stato al vertice del Pescara. Sì, era stato autore, diciamo, della prima promozione in Serie A del Pescara, quindi negli anni 76-77. Una eredità pesante, ma anche molto molto bella, molto così piena di passione, quindi diciamo c'è passato, presente e futuro. Sentite, toglietemi subito una curiosità, chi è stato il primo uomo nella vostra vita a spiegarvi cos'era il fuorigioco? Presidente Maio, che è il grande ostacolo nell'approccio delle donne al calcio. Io dico, ha cercato di spiegarmelo il mio compagno, ma ancora sono molto brava a capire qual è il fuorigioco. Però mi sto impegnando, ce la sto mettendo tutta. Sicuramente Deborah sarà più esperta di me. È così. Ma che a forza di rivedere le cose impari, memorizzi, insomma così. Tra l'altro, Presidente Maio, lei di calcio ne mastica in famiglia anche perché è fidanzata con un suo calciatore, con Manuel Turchi, ma è difficile conciliare i due ruoli. Si va d'accordo tutta la settimana, poi arriva il fine settimana, magari Manuel sbaglia un gol e da presidente Lo caccio di casa. Valigia sempre pronta. No, a parte gli scherzi, si riesce benissimo, anche perché penso di essere abbastanza equilibrata come persona, quindi dentro casa si parla di tutto, ma tranne che di sport. Si parla di quello che si fa normalmente nella vita quotidiana, quindi col bambino e ciò che richiede la famiglia. Poi quando lui va a fare allenamento è tutta un'altra storia, perché lui fa il suo lavoro e io vengo in ufficio e faccio il mio, e la domenica sicuramente sì, si parlerà qualcosa, ma non più di tanto. Poi quando si vince siamo tutti contenti, quindi si condividono le belle gioie. Quando si perde un po' meno, nessuno vuole sentire l'altro perché ognuno è nervoso del suo ruolo, e quindi però si cerca di coincidere bene la cosa. Tra l'altro a lei è toccato anche esonerare l'allenatore quest'anno, no? Far la voce grossa nello spogliatoio, com'è per una donna di 26 anni? Non è facile, ma così come non è stato facile esonerare una persona splendida come Sergio Di Francesco. Mi è dispiaciuto molto, però purtroppo i risultati erano quelli che erano, o meglio, non ci sono stati risultati, e quindi l'unica decisione da prendere, e forse anche la migliore, è stata quella di esonerare Eusebio Di Francesco. Passiamo la palla a Deborah Caldora, presidente del Pescara. C'è una via tutta femminile al calcio, sport maschile e maschilista per antonomasia. La via delle donne, non lo so, penso che sia la via di un uomo che cerca di operare bene, e il risultato non può essere assicurato perché si è donna o perché si è uomini, tutto da vedere, insomma, un confronto alla pari, spero. Poi voglio dire, la donna può portare forse una sensibilità maggiore rispetto a certe questioni, però non, ritengo che non ci sia particolare differenza che in altri campi, in altri settori, comunque il mondo del lavoro è prettamente maschile, quindi certo questo settore è più degli altri, però non mi fascerei la testa prima. Ma le è capitato qualche episodio in cui ha toccato con mano una maggiore difficoltà a acquisire autorevolezza, credibilità in questo contesto, in questo ruolo così particolare? Ma no, anche perché non cerco di dare notizie, informazioni o imporre decisioni specificatamente tecniche che non mi competono. Questo è la prima cosa, bisogna riconoscere proprio i limiti, quindi posso parlare di gestione, di azienda, di società, di coinvolgimento, di aggregazione, di marketing, di commerciale, di comunicazione, ma se voglio esprimere e imporre i miei pensieri nell'ambito tecnico specifico settore, penso che non posso farlo, ma come forse non deve farlo un presidente in generale, e lasciare che le scelte più tecniche siano proprio dei professionisti. Divise dai colori sociali, mi sembra unite su un'idea di calcio che sappia conciliare la passione per lo sport ma anche la capacità di riattrarre negli stadi le famiglie, problema cronico del nostro calcio. Presidente Maio, quale potrebbe essere una strategia da mettere in campo in questo senso? Quando abbiamo fatto la campagna elettorale abbiamo proprio cercato di dare un input per far sì che tutte le famiglie venissero allo stadio, per far sì che la domenica non sia soltanto una giornata di pallone ma una giornata di sport unito anche con le famiglie e i bambini. È un obiettivo che tutte le società di calcio devono cercare di raggiungere, portare più bambini allo stadio, più gente, più tifosi. E l'iniziativa sarebbe quella innanzitutto di mantenere i prezzi ad una giusta dimensione, proponibili un po' per tutti. E poi sicuramente cercare di organizzare alla struttura del campo, dello stadio, delle altre strutture accessorie ma importanti per far sì dove la famiglia possa vivere la domenica. Quindi per esempio mi viene in mente una struttura come un centro commerciale dove la signora, la mamma può andare a fare la spesa, il bimbo può andare a giocare in dei posti proprio adibiti per i bambini e il papà può venire a vedere la partita. Ci possono nascere tante situazioni particolari per far sì che la domenica si viva un giorno di sportività da parte di tutta la famiglia. Presidente Caldora, lo ritiene un modello perseguibile questo? Da parte di un calcio italiano che fa fatica ad imparare concetti nuovi, a rinnovarsi ed anche ad imparare ciò che c'è di positivo dagli altri sport. Insomma, ad esempio l'introduzione di questo famoso e tanto declamato terzo tempo non è che sia poi stata attuata più di tanto, no? A tutti i livelli. Il vostro tra l'altro com'è andato dopo il derby? Mio e di Valentina bene, perché noi ci siamo salutate, ci siamo strette la mano, gli ho fatto i complimenti, ci siamo abbracciate e salutate come all'inizio della partita. E purtroppo non si può dire lo stesso per i giocatori, non tanto vabbè per parte Pescara e Lanciano, ma forse in generale questo terzo tempo non riesce a sfondare come novità, come avvenimento, perché alla fine di una partita gli animi comunque dei giocatori che sono stati in campo tutto quel tempo e che solo loro sanno quello che si sono detti, hanno vissuto, non è facile da gestire, non è facile da controllare, non possiamo imporre anche a loro probabilmente una serenità che in quel momento non hanno. Certo, lo sforzo c'è, è un teso sempre a far sì che dopo la partita gli animi rimangano sereni, però è un passo che si può fare volta per volta, ci vuole tempo, quindi tra me e Valentina è andato benissimo, ma per il resto dobbiamo ancora forse lavorare. Credo che per entrambi Rosella Sensi a guida della Roma sia un punto di riferimento, no, Presidente Caldora? Sì, più che lei sicuramente il modello societario, il padre sicuramente è stato un grande esempio per tutti, immagino anche per lei, quindi sì, penso più come struttura societaria che come persona, anche perché non la conosco, però il modello mi piace moltissimo. So che invece il Presidente Maio ha avuto anche modo di ricevere degli incoraggiamenti dalla Presidentessa della Roma, vero? Noi abbiamo fatto un'amichevole a Trigoria, abbiamo fatto la partita con la Roma, quindi tutti i dirigenti, Bruno Conti e tutti quanti mi hanno mandato i saluti da parte della presidentessa e quindi io ho contraccambiato questi saluti. Comunque c'è stato una sorta di email quando io ho iniziato questa avventura degli in bocca al lupi a vicenda, è andata così. Dal vostro punto di vista, del calcio in rosa, cosa cambiereste nel nostro pallone, Presidente Caldora? Sicuramente per far sì che questi luoghi dove si svolgono le partite diventino luoghi per le famiglie bisogna assicurare a chi ci viene tranquillità e serenità, e quindi il discorso legato alla tifoseria, alle violenze, al rispetto delle persone, delle cose sicuramente è importantissimo, quindi è il primo aspetto su cui lavorerei. Presidente Maio, lei il pallone. No, sono veramente d'accordo, condivido ciò che dice Deborah riguardo al fatto di andare contro quelle che sono le violenze, a facilitare l'ingresso negli stadi ai bambini, alle famiglie, il discorso appunto che facevamo prima. Però non mi sento nemmeno io dispormi più di tanto a dire cosa cambierei e cosa farei per il calcio, anche perché sono un presidente di una società di calcio, non posso espormi così tanto per proporre dei cambiamenti, o comunque se lo dovessi fare non in queste sedi ma in sedi diverse. Ogni presidente che si rispetti ha i suoi sogni nel cassetto per quanto riguarda il suo allenatore preferito e il campione per cui farebbe una pazzia per mettergli indosso la maglietta della propria squadra. Allora, insomma, apriamo questo cassetto e confessiamo a cuore aperto i vostri sogni. Presidente Caldora, avesse un budget illimitato e dovesse far una pazzia, allenatore e giocatore dei sogni. Ah, mamma mia, allenatore, che gli allenatori che io stimo sono Spalletti e Prandelli. Come giocatori non lo so, sicuramente qualcuno che oltre al buon gioco porti anche dei valori. E il mio sogno nel cassetto adesso è vincere il Lanciano quanto prima, quindi per il resto, tutto il resto in questo momento non esiste. Presidente Maio. Allora, c'è da dire una cosa che a me Deborah mi fa morire, è una persona, guarda, che io stimo da morire, è simpatica, è brillante, quindi a parte questo, una piccola parentesi, ma chi mi piace? Dino Pagliari sicuramente, a parte lui, molto Prandelli, lo stimo moltissimo, anche perché prima di essere secondo me un grande mister devi essere anche un grande uomo, e la stessa cosa vale per il giocatore, quindi Prandelli lo è a tutti gli effetti, sia come uomo che come mister, e poi mi piacerebbe, insomma, c'è una lista infinita di giocatori bravi che abbiamo nel nostro campionato in Italia. Potrei dirle, non lo so, mi viene in mente Maldini, mi viene in mente un Buffon, potrebbero essere tanti. Campagna acquisti aperta, direi, per Lanciano e Pescara. Io vi ringrazio per la vostra simpatia. Faccio entrambi in bocca al lupo per il derby di ritorno. Immagino baci e abbracci, ma stavolta 3 punti al Pescara. Tutti d'accordo? Intanto crepi. Poi stavolta saremo sicuramente più determinati. Oh, Valentina, cominciati a preparare per stasera. Va bene, crepi lupo anche da parte mia, mi preparerò e dirò ai miei assolutissimamente dovete vincere contro il Pescara. S'azzanderanno sti poveretti. Beh, insomma, no, immagino non capiti a tutte le donne di poter comandare a piacimento 22 giocatori più 22 ma uomini magari, più riserva. Magari, tutto un siparietto che abbiamo fatto, poi alla fine là a giocare ci stanno loro, le motivazioni solo loro le conoscono, speriamo che siano quelle giuste sempre per vincere e vincere bene. Però ecco, insomma, noi possiamo ma fare noi, tanto. Noi cerchiamo però di scherzare per ammorbidire anche un po' la situazione. Ecco, sì, sì. Infatti, se tutto quello che abbiamo fatto è servito un po' a stemperare, a farci restare comunque tutti sereni, questo secondo me già vale tantissimo. E allora, grazie alle due presidentesse del Lanciano e del Pescara. A bordo campo. La la la la. Io sono un uomo, non so se hai presente un uomo. Ma che bella sensazione mi dà allentare la mia rigidità. Essere un essere umano soltanto nel riso, nel pianto e negli sbagli miei. Negli sbagli miei. Grande campione del nuoto italiano e non solo, visto che è bicampione mondiale sui 100 metri stile libero. Ma Filippo Magnini, 27 anni di Pesaro, è anche personaggio fuori dalla piscina, tra reality TV, l'impegno nella moda, la lotta al doping, il sogno del tris iridato ai mondiali di Roma 2009. E allora nostro ospite proprio Filippo Magno, a bordo campo e a bordo vasca direi. Filippo, duro tornare in piscina dopo la delusione delle Olimpiadi di Pechino, dove il sogno di una medaglia è sfumato con la mancata qualificazione proprio alla finale dei 100 stile libero? Lo sport è questo, a volte si vince, a volte si perde, quindi quando si vince si nuota col sorriso e quando si perde bisogna tornare a nuotare col sorriso il più velocemente possibile, quindi io adesso sono molto tranquillo, ho trovato nuove energie e nuove voglie di nuotare. L'Olimpiade, guarda, parlo io di delusione perché comunque nella mia gara non sono riuscito a ottenere quello che volevo. Se devo analizzare da fuori la mia Olimpiade, ho fatto 2 quarti posti con 2 prestazioni comunque le migliori che abbia mai fatto nella mia storia, quindi a livello di tempi avevo fatto delle grandissime prestazioni, poi purtroppo non è arrivata la medaglia, quindi non c'è stata neanche quel picco di fortuna, però abbiamo girato e adesso guardiamo il mondiale a Roma. L'isola dei famosi, Filippo Magnini! Hai provato a ricaricare le pile tuffandoti nel mondo dei reality TV, inviato speciale per l'Isola dei Famosi. Come hai preso questa decisione e qual è alla fine il tuo bilancio? Lo sport in Italia è visto un po' diverso rispetto allo sport nel mondo. Io penso che noi ragazzi comunque siamo persone normali, quindi facciamo tanti sacrifici per ottenere dei risultati nello sport, ma ogni tanto bisogna staccare la spina per poi riprendere con più voglia. Io ho deciso di fare l'isola perché le Olimpiadi mi erano andata male. Comunque io avevo intenzione di staccare un po' la spina ugualmente, anche se avessi vinto le Olimpiadi. Quindi la mia scelta era già stata prima di comunque mollare un po' la presa come allenatore. C'è stata questa occasione qua e ho preso la palla al balzo, mi sono divertito molto, ho ricaricato le batterie di testa e sono tornato in acqua con molta più voglia di prima. In effetti ho fatto un campionato europeo senza neanche grande allenamento, dove ho vinto un oro, un argento e un bronzo con un record del mondo, quindi va benissimo. Tu all'isola, lo schermidore Tagliariol e il pugile russo alla talpa, Valentina Vezzaglia ballando con le stelle. Cosa ha spinto tanti campioni azzurri verso la TV quest'anno? No, io penso che c'è un po' di tutto. È ovvio che fare comunque un programma TV ti può dare sicuramente molta più notorietà, quindi riesci anche a monetizzare di più, però il mio discorso non è stato... Io adoro le sfide, adoro le cose nuove, quindi ho deciso di fare questa esperienza che a me attirava molto. Poi ognuno fa la sua decisione, però penso che ci si avvicini poi molto agli sportivi, perché comunque sono ragazzi normali, ragazzi con sacrificio, con la voglia di allenarsi, hanno ottenuto grandissimi risultati, spesso sono degli esempi per i giovani in qualunque campo, comunque nel campo televisivo ci siamo distinti in una bella maniera, quindi comunque abbiamo fatto vedere le caratteristiche di uno sportivo, le caratteristiche di un ragazzo comunque che ha la mente d'età vincente, quindi secondo me è il binomio. Insieme a Federica Pellegrini sei anche il testimonial di Armani. Irresistibile il fascino degli sportivi e dei nuotatori in particolare, o bravi voi soprattutto a vendere la vostra immagine? Ma no, io penso che comunque alla fine di, cioè, bei ragazzi o belle ragazze ci sono in giro, poi se si guarda magari a noi come testimone di una linea d'abbigliamento, nel caso mio d'Armani, è ovvio che ci deve essere anche qualcosa in più. Signor Armani è un appassionato di sport, è un amante degli sport, quindi probabilmente in me o in Federica ha visto sicuramente dei ragazzi che fanno dello sport la loro vita, dei ragazzi che sanno emozionare, lui sicuramente si è emozionato con le nostre gare. E comunque siamo, ripeto, dei visi puliti, dei ragazzi semplici, dei ragazzi che comunque riescono a veramente far emozionare la gente con le loro gesta sportive. Per me è un onore poter comunque rappresentare la sua linea, e penso che sia contentissimo il signor Armani ad avere dei ragazzi che comunque poi nel loro sport rispecchiano i valori che servono adesso. A proposito di visi puliti, sotto il profilo della lotta al doping, consideri il nuoto uno sport pulito o si potrebbe fare di più? Tu stesso hai spesso detto che sei certo di aver gareggiato più volte contro rivali dopati. Ma sì, la convinzione c'è sempre, non senza fare nomi, perché comunque non è che io ho fatto dei nomi o ho fatto accuse su qualcuno, però è ovvio che c'è anche nel nuoto, io spero in quantità minori di altri sport, però è un tanto fenomeno che è difficile da fermare, le tecnologie ci sono, per combattere questa cosa, perché è proprio una malattia per lo sport, perché non coincide con nessuno dei valori che ti insegna lo sport. A Roma, insomma, io spero di gareggiare contro atleti puliti, io ho sempre detto che su di me potevo fare qualunque prelievo, anche del DNA, quindi io sarei contento che i miei avversari, insomma, fossero puliti come lo sono io, come lo sono poi tutti gli italiani, che abbiamo fatto vedere che nel nuoto non sono praticamente mai stati casi di doping, e questo è anche un bel segnale. Parlavamo dello stress da piscina, credi che rivedremo in acqua Laure Manadou, la grande campionessa francese che, travolta da gossip e cattivi risultati, si è presa un anno sabbatico? Ma io penso che una volta che si stacca così tanto dallo sport è poi difficile ritornare. Io me lo auguro per lei perché è una grande campionessa, poi per la fortuna degli italiani o comunque degli avversari sicuramente è meglio che non torna, perché poi quando in acqua era, si allenava, era quasi impossibile batterla, quindi però io penso che è difficile tornare quando si stacca così tanto. Poi lei comunque viene da 2 anni molto difficili, ha vinto tutto comunque nella sua carriera e quindi è anche magari difficile trovare nuove motivazioni, però da lei ci si può aspettare di tutto. Phelps won his 8th gold medal of the Beijing game, cruising past Mark Spitz and claiming the record for most gold medals won in a single Olympics. Being able to, you know, to have something like that to shoot for, I think. Stress da piscina in realtà anche per chi come Michael Phelps le Olimpiadi le ha dominate vincendo 8 ori. Per lui squalifica di 3 mesi per aver fumato marijuana in un party e le foto hanno fatto il giro del mondo. A quel punto meglio se te lo fossi portato con te sull'Isola dei Famosi, che ne dici Filippo? Ah beh certo, era meglio fare l'isola sicuramente che ridursi a fare quella cosa là. Sinceramente mi sento anche un po' in difficoltà a giudicarlo, perché secondo me è un grandissimo campione, è veramente il più forte di tutti i tempi, però è ovvio che ha fatto un gesto, insomma, un gesto non bello né per lui né comunque per le persone che lo ammirano, lo tifano. Quindi io lui posso dire di conoscere, nel senso che ci ho parlato alle Olimpiadi, ci siamo fatti sempre in bocca al lupo, gli ho fatto io i complimenti a lui, però diciamo che comunque non mi aspettavo da lui una cosa del genere, però non mi sento neanche di accusarlo. Adesso la sua punizione l'ha avuta, è ovvio che è più una punizione d'esempio, perché poi 3 mesi di squalifica fanno ridere, visto che non perde assolutamente nessuna gara importante, non compromette niente della sua carriera, però è un gesto che rimarrà comunque nella storia, quindi deve stare un po' più attento. 1 anno per l'alcol, 1 anno per la marijuana, insomma speriamo che si fermi qua. Parlavamo di moda, Filippo, e allora viene facile parlare dei famosi super costumi che hanno cambiato il libro dei record del nuoto. Che ne pensi? Ma io sono dell'idea sempre che comunque bisognerebbe tornare ai costumini, questo è ovvio. Poi adesso la tecnologia c'è, e la cosa che c'è adesso, insomma, che la tecnologia è a disposizione di tutti. Nell'anno olimpico era difficile poter usufruire, poter arrivare a mettere mani su quei costumi, quindi molti atleti hanno gareggiato con dei costumi veramente di vecchia generazione. Questa era la polemica, cioè non si può perdere delle gare perché degli atleti hanno dei costumi migliori. Adesso i costumi sono nelle mani di tutti e quindi va bene così. Poi la nostalgia del vecchio slippino, quella rimane sempre. Curioso poi che tu e il campione olimpico Alain Bernard vi siete invertiti lo sponsor tecnico. Tu sei passato alla Speedo, il francese all'italiana Arena. Forse in fondo c'è la voglia di dimostrare che quello che conta è l'uomo più che il superbody? Ah beh certo, quello è per forza, il costume da solo non va avanti. È ovvio che è stato testato proprio con comunque strumenti, è stato testato che questi nuovi costumi fanno galleggiare di più, fanno penetrare di più in acqua, fanno scivolare di più l'atleta, quindi per forza comprimono la superficie corporea dell'atleta, quindi è automatico che sia un vantaggio proprio cronometrico. Io stesso arrivavo da 2 o 3 sconfitte con il vecchio costume, ho indossato Speedo come i miei avversari e 7 colli di Roma ho vinto, mentre invece fino a quella gara lì loro sembravano irraggiungibili con i tempi che avevano fatto. Quindi questo sta a dimostrare che se tutti hanno la stessa tecnologia, in quel momento lì si vede il vero valore dell'atleta. Poi Bernard ha fatto la sua scelta, penso che ha fatto la scelta sbagliata, però se lui ha fatto la sua scelta sicuramente avrà avuto le sue giuste motivazioni. Io ho fatto la scelta che per me mi sembrava più giusta, quindi passare alla Speedo. E adesso vediamo cosa verrà fuori ai mondiali. È ovvio che l'atleta poi fa la parte maggiore nella gara, però comunque Schumacher senza Ferrari ma con una 500 probabilmente con la sua Ferrari forse lo battevo anche io. Il pilota conta, però la tecnologia, se ti dà una mano a parità di pilota, vince chi ha la tecnologia migliore. Quanto peserà la lezione di Pechino sui mondiali di Roma? Com'è cambiato Filippo Magnini? Non è cambiato. Diciamo che è cresciuto, comunque le sconfitte servono anche a questo, quindi si impara dagli errori. Io a Pechino, ripeto, ho fatto nei 200 stile libero la seconda prestazione mai notata al mondo dopo Phelps, e nei 100 stile libero in staffetta ho notato 1 decimo più di Alain Bernard, che poi ha vinto le Olimpiadi, quindi sono a livello loro, soltanto non sono riuscito a rifare quella prestazione nel momento della gara, quindi è un rimpianto, è una gara sbagliata, però quando vincevo io gli altri perdevano. abbiamo fatto questo discorso che faccio io adesso, questa volta ho perso io, qualcuno farà il discorso da vincente, quindi ci sta, nello sport è questo, bisogna saper vincere e perdere, una volta che si perde bisogna tirarci su più forti di prima, quindi a Roma andiamo con molta più convinzione. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Giorgio Matei in regia, potete riascoltarci sul nostro sito www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail a bordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.